Lorenzo Maria Salvi. Il beato Lorenzo Maria Salvi, futuro discepolo di San Paolo della Croce, infatti sarà un passionista, come vedremo tra poco, conosciuto soprattutto come l'apostolo, dicevo, di Gesù Bambino. Tanto, pensate, ne diffuse proprio la devozione in tutti i luoghi in cui lui è stato, sia con la predicazione ma anche con degli scritti. Nacque a Roma il 30 ottobre del 1782. Era il primo figlio di Antonio Salvi. Il papà era una persona abbastanza importante perché era addetto all'amministrazione dei beni del conte di Carpegna. La mamma invece si chiamava Anna. In quegli anni era Papa Pio VI, erano, cari amici, tempi bui, perché sappiamo che in Francia filosofi e sociologi preparavano quella che sarà la grande rivoluzione francese che avrebbe poi cambiato il volto dell'Europa. Tornando al nostro beato, il giorno dopo la nascita fu battezzato nella chiesa parrocchiale con i nomi di Lorenzo, Gaetano ed Emanuele. Fu un giorno di grande festa per tutti, era il primogenito, quindi potete immaginare la gioia della famiglia. Ma questo, dopo neanche un mese, si cambiò in lutto, perché purtroppo la mamma morì, quindi rimase orfano un mese questo bimbo. Il papà allora, anche pensando alla crescita di Lorenzo, decise di risposarsi, ma con una donna profondamente cristiana, dedita alla preghiera, dalla quale si chiamava Anna Maria Costa, ed ebbe altri 5 figli. E fu merito sia del papà di Lorenzo che di questa mamma, Anna Maria Costa, se la famiglia visse unita in quegli anni con solidi principi cristiani, nonostante i moti sovversivi dell'inizio del secolo XIX. Parlavamo della rivoluzione francese, ma anche di un ateismo, diciamo di una persecuzione anche nei confronti della Chiesa, che già stava prendendo forma anche in Italia. E qui, proprio sotto la guida di questi santi genitori, Lorenzo imparò a pregare, imparò ad accostarsi con frequenza ai sacramenti, comprendendone l'importanza, favorito in questo anche dal suo temperamento, che era introverso, temperamento che lo portava più alla riflessione che ai giochi dell'età. Dopo le prime classi di scuola, per vari anni frequentò il collegio romano fondato dai gesuiti, in compagnia di un altro santo, San Gaspare del Bufalo. Studiò poi matematica e filosofia in casa, con Gaspare, sotto la guida di padre Mauro Cappellari, camaldolese, che sarà poi il futuro Papa Gregorio XVI, proprio il futuro Papa, per sfuggire in quei mesi alla persecuzione della prima Repubblica Romana proclamata nel 1798, e qui ci fu poi anche l'esilio di Pio VI a Valencia nel Delfinato. Il futuro Papa fu ospite della famiglia Salvi. Nel frattempo, il beato Lorenzo, frequentando l'oratorio dei Gesuiti, crebbe in modo incredibile nella devozione alla Santissima Vergine. Aveva una devozione particolare, di grande tenerezza nei confronti di Maria, e proprio per questo iniziò a visitare i santuari romani più importanti in compagnia di amici altrettanti pieni di zelo, di amore grande per Gesù e Maria. E proprio in quei mesi fu profondamente colpito dall'esempio dei passionisti, come dicevo, fondati da San Paolo della Croce, che operavano in modo meraviglioso a vantaggio di tanti fratelli, soprattutto tanti abbandonati, soli. Sentì allora nel cuore la spinta, il forte desiderio di unirsi a loro, di diventare un loro confratello. Pensate, proprio quando, in quegli anni, diversi governi in Europa concordavano di perseguitare, mettendo alla gogna, i religiosi. E qui, con una certa trepidazione, ne parlò al papà, non era sicuro della risposta, e chiese al papà il permesso di operare questa sua scelta, ma il padre quel giorno gli rispose: «Per un anno non parlarmi né di preti, né di frati e né di monache, in seguito deciderai». Ecco, dopo questa frase del papà, Lorenzo ci rimase male, ma seppur a malincuore obbedì, perché si fidava, si fidava del Signore. E come aveva chiesto il papà, dopo un anno che passò anche, diciamo, in intensa preghiera, offrendo al Signore tante penitenze perché alla fine il papà gli dicesse sì, si presentò al genitore dicendogli: «Io ho fatto per un anno quello che tu volevi, ora ti chiedo che anche tu faccia la tua parte». Il padre non poté più tirarsi indietro. Fu così che Lorenzo ebbe la gioia di entrare nella famiglia dei passionisti. Dobbiamo anche dire che in questa scelta, cioè dell'entrare nei passionisti, ebbe un peso rilevante l'ascolto delle prediche, delle omelie di un altro grande santo passionista, di San Vincenzo Strambi. San Vincenzo Strambi era grande amico anche di un altro fondatore, di San Vincenzo Pallotti, e della Beata Anna Taigi. E proprio le prediche che San Vincenzo Strambi teneva nelle varie chiese di Roma, prima di essere eletto da Pio VII, vescovo di Macerata e di Tolentino, fecero breccia nel cuore di tanti ragazzi, tra cui appunto Lorenzo. Nel frattempo il nostro Beato, quindi una volta entrato all'interno della congregazione, fu inviato a fare il noviziato a Monte Argentario, in provincia di Grosseto, il 14 novembre 1801, e prese il nome di Lorenzo Maria di San Francesco Saverio. Ma non furono anni facili per lui, perché il demonio lavorava di fino. Non gli mancarono, pensate, tentazioni così forti che lo portarono a volte addirittura allo scoraggiamento, e cominciò a pensare che forse non era la scelta giusta, che non sarebbe stato un buon apostolo nella Chiesa. Ma pensate, tutto superò con la virtù dell'obbedienza al suo maestro. E quando emise i voti il 30 novembre 1802, con un cuore traboccante di gioia, fece l'offerta di se stessa al Signore e alla Vergine Maria, dicendo tra l'altro: «Fa, o Signore, che io ti serva fedelmente in questa santa congregazione per tutti i giorni della mia vita. Veramente tu sei degno di ogni servizio, di ogni onore e di lode eterna. Tu sei veramente il mio Signore e Padrone, e io sono il tuo povero servo, tenuto a servirti con tutte le mie forze. Così voglio, così desidero». E poi, rivolgendosi alla Madonna, dice: «O Santa dei Santi, oceano di grazie, Santissima e Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, dammi la forza di adempiere perfettamente ciò che in questo giorno ho promesso al tuo Figlio. Dirigimi e proteggimi in ogni ora e minuto, Signora mia, Madre mia, anzi, mio cuore e mia anima». E proprio questa offerta meravigliosa sarà rinnovata con un entusiasmo sempre crescente ogni anno da Lorenzo, proprio nel giorno in cui aveva emesso la prima professione, quindi il 30 novembre. Nel frattempo si preparò però anche all'altro grande passo, al sacerdozio, e questa preparazione la fece a Roma, proprio nella casa generalizia dei Santi Giovanni e Paolo. Allora era ancora in aperta campagna, E questa casa era stata donata da Papa Clemente XIV a San Paolo della Croce nel 1773. E allo studio delle materie ecclesiastiche Lorenzo unì anche quello della musica, che amava molto, e per tutta la vita avrà la possibilità, anche il piacere, di suonare l'organo durante le funzioni sacre della propria comunità, ma sempre nel grande nascondimento e nell'umiltà. E qui, passo dopo passo, arrivò anche la fatidica data, quella che attendeva da sempre, che avrebbe cambiato la sua vita. Fu infatti ordinato sacerdote il 29 dicembre 1805, aveva 23 anni, e venne ordinato nella cappella privata del vicereggente di Roma, Monsignor Benedetto Fenaia. Fu tanta la felicità di quel momento che volle consacrare e fare dono alla Santissima Trinità per sempre del suo corpo e della sua anima. E proprio, cari amici, per assolvere pienamente, con entusiasmo, con grande carità, con amore verso i fratelli, il suo apostolato di sacerdote, iniziò sia a studiare di nuovo, ma soprattutto a meditare nel preparare le sue omelie. Davanti a Gesù, davanti alla Madonna, cercava di portare ai fratelli le parole più belle, ma piene di passione, piene di amore, piene di fede soprattutto. E questo lo aiutava molto, per esempio, seguendo i suggerimenti proprio di San Vincenzo Strambi, quando teneva i suoi corsi ai ragazzi, praticamente ai passionisti. Proprio in quei momenti, in quei giorni, gli arriva però una notizia che lo addolora profondamente, è la morte del papà, che amava tantissimo. E qui c'è un problema, perché oltre al grande dolore per la morte del papà, questa perdita così grande, questa dipartita creava anche dei grandi problemi economici alla famiglia, non a lui che era all'interno della congregazione, ma alla famiglia sì, perché si trovava scoperta nei vari impegni a cui doveva poi tenere fede. Ma qui intervenne proprio il conte di Carpegna, che aveva sempre stimato la grandezza del papà di Lorenzo, anche la sua specchiata onestà, e quindi, sapendo di questo problema, chiamò ad amministrare i suoi immensi beni Gaspare, il fratello di Lorenzo, che aveva 21 anni, il quale Gaspare poté così aiutare la famiglia, aiutare anche se stesso negli studi di architettura. Nel frattempo il cammino spirituale del nostro Beato era sempre più forte, sempre più intriso di un grande amore e anche di una grande unione con Gesù, e diventava davvero ogni giorno più infiammato, e questo amore, questa tenerezza che questo ragazzo, questo giovane passionista nutriva per Dio e per la Santa Vergine erano veramente incredibili, a tal punto che già in quel tempo il Signore cominciò a favorirlo di doni mistici. Lui, per la verità, molti anni più tardi, poi riprendiamo però il cammino storico, il cammino corretto nelle date, lui molti anni più tardi, esattamente nel 1844, scrisse al fratello questa cosa, proprio relativamente al discorso che facevamo dei doni mistici. Scrive così al fratello: «Con grande impegno e premura ho sempre cercato di suffragare le anime dei nostri amorosissimi genitori, messe ogni anno, orazioni, indulgenze a loro favore. Non li dimentico mai», dice Lorenzo, «sebbene del comune nostro genitore, cioè del papà, abbia poco meno che una morale certezza della sua eterna salute», quindi era abbastanza tranquillo. Però lui continua: «Ti dirò una cosa che ho tenuto continuamente nascosta. Nella notte della Domenica in Albis del 1807, quindi un anno dopo che il papà era morto, mi comparve il papà tutto luminoso e mica dormivo», dice Lorenzo, «e mi fece intendere chiaramente che allora se ne andava in paradiso e null'altro mi disse». Allora, questo, al di là che ovviamente è degno di nota e di spiccata chiarezza da parte del nostro Beato, è consolante anche per noi, quando ricordiamo nelle nostre preghiere le anime del Purgatorio e in particolare i nostri cari, vedere proprio queste preghiere quale effetto hanno e che grande premio viene loro concesso con l'ingresso in Paradiso. Io dico, dobbiamo veramente essere coscienti e ringraziare anche queste testimonianze di questi santi, perché ci incitano, ci invitano a continuare a pregare per tutte le anime del Purgatorio, perché questa preghiera è davvero preziosa ed è insostituibile. Ma torniamo a quegli anni turbolenti. In Francia Napoleone Bonaparte era diventato, come sappiamo, con un colpo di Stato primo console. Poté così chiudere con Pio VII un concordato, siamo nel 1801, che Napoleone ordinò con l'aggiunta di altri articoli. Insomma, per farla breve, in questi articoli sarebbe stato lui, il futuro imperatore a decidere per la Chiesa, questo anche riguardo alle nomine dei vescovi, quindi le nomine non sarebbero stato più appannaggio del Papa, ma dell'imperatore. Nel 1804, diventato poi imperatore della Francia, si sentì in tutto come un vero successore di Carlo Magno, quindi anche di Roma e signore dello Stato Pontificio. Ma poiché il Papa non poteva accogliere queste continue insolenti e inaccettabili pretese, Napoleone qualche anno dopo diede ordine al generale Niolli di entrare in Roma con i suoi soldati. Erano i primi di febbraio del 1808. Anzi, circa un anno dopo ordinò l'annessione di tutto lo Stato Pontificio all'impero francese, motivo per cui il Papa fu costretto, suo malgrado, a scomunicare di sé i rapinatori del patrimonio di San Pietro, i loro mandanti, i fautori, consiglieri ed esecutori. Napoleone naturalmente era irato per questa cosa, anche perché la scomunica del Papa era una cosa pesantissima per l'Europa e anche per il resto del mondo, aveva una valenza enorme. Allora cosa si fece? Si vendicò, facendolo arrestare poi nel palazzo del Quirinale e rinchiudendolo nella fortezza della città di Savona. Giunto poi all'apice della sua potenza, siamo nel 1810, non contento, decise, come sappiamo, di sopprimere gli istituti religiosi e di imporre a tutto il clero secolare e anche regolare il giuramento di fedeltà all'impero. Sembra di essere ritornati ai martiri di Roma, cioè dovevi bruciare l'incenso agli idoli, se no eri fuori legge. Anzi, diceva che a chi lo avrebbe fatto, cioè avrebbe giurato fedeltà all'impero, sarebbe spettato una congrua pensione di 500 franchi al mese. Naturalmente padre Lorenzo Maria si rifiutò di fare questo giuramento, ma questo rifiuto gli toccò praticamente la vita, nel senso che dovette abbandonare, perché ormai era fuori legge, quindi la casa generalizia, con una sofferenza atroce nell'anima, possiamo immaginarlo. Aveva 28 anni e deposto l'amatissimo abito religioso, andò poi a rifugiarsi in compagnia di un fratello laico del convento in un ritiro semi-abbandonato di Pieve Torina, in provincia di Macerata. Questo fratello laico lo aiutava a coltivare l'orto, vivevano con quelle poche cose, a tenere in ordine quello che restava di un piccolo convento e una chiesetta, la chiesetta di Sant'Agostino, nella quale egli predicava per le persone del paesino e qui anche confessava e celebrava anche i divini misteri. Proprio per la stima che avevano di lui, gli chiesero anche se voleva fare l'insegnante nella scuola elementare del paese ed egli accettò anche per l'ospitalità, che insomma questi paesani, e anche per l'affetto che gli mostravano. Era sereno, ma il suo cuore, cari amici, era sempre là, in quello che era il suo convento, costretto a lasciare, unito a tanti confratelli che ormai non vedeva da tempo. L'attristato profondamente dallo scempio che Napoleone aveva creato nella Chiesa, e da qui ancora tanta preghiera per il suo amato ordine, per il Santo Padre, per la Chiesa, Chiesa che stava vivendo un momento davvero grave e difficile. Non dimenticò neanche i suoi familiari, con i quali intrattenne sempre rapporti cordiali di vicinanza, e come faceva con tanti poveri del circondario, ogni tanto anche a loro mandava dei viveri, come un po' di frutta, dei formaggi. Allora la povertà era per tutti, che appunto il fratello laico preparava o coltivava nei campi della zona. E poi, quando magari c'era la possibilità di ritrovarsi tutti insieme con i familiari, andavano a fargli visita, con gioia si recavano in pellegrinaggio al vicino santuario di Loreto. È molto probabile che proprio visitando la Santa Casa di Nazareth, padre Lorenzo Maria abbia concepito l'idea di, o si è sentito toccato nel cuore, per propagare tra tutti i fedeli la devozione al bambino Gesù, così da indurli proprio a meditare questo enorme mistero dell'incarnazione. In quel periodo poi, dopo che nel paese di Pieve Torina per 2 anni consecutivi ebbe predicato anche per diffondere questa devozione, pensate a che grandezza, anche che profondità aveva diciamo scovato in questa nuova devozione a Gesù Bambino, questa devozione divenne in lui, possiamo dire, travolgente anche se non mancavano le critiche dei confratelli, dei passionisti, che la consideravano non del tutto conforme alla spiritualità della congregazione. Sappiamo che la devozione di San Paolo della Croce, cioè il carisma, era soprattutto la passione di Gesù, per questo si chiamano passionisti, quindi era la sofferenza Gesù crocifisso. Ma lui a questo univa anche questa bellissima devozione che tante grazie e anche miracoli ha ricevuto. Intanto nel 1815, a 33 anni, al quarto voto di propagare la devozione alla passione di Gesù, tipica dei passionisti, voglio aggiungere anche quello di propagare con la parola, appunto gli scritti, la devozione a Gesù Bambino. Ci viene detto dalle cronache, ed è molto probabile, che questa decisione fu presa, diciamo, in modo ancora più deciso e voluto proprio in seguito alla guarigione che lui ottenne da una grave malattia. Quindi chiese al Signore la guarigione da questa malattia e gli avrebbe promesso appunto la diffusione della devozione a Gesù Bambino, al mistero dell'incarnazione. Nel frattempo, quello stesso anno, pensate, un altro grande santo, San Caspare del Bufalo, fondava proprio a Giano, in Umbria, i missionari del Preziosissimo Sangue per l'evangelizzazione dei popoli, innanzitutto del popolo italiano. Insomma, gli intenti dei due santi, come anche degli altri che allora erano in Italia e in Europa, erano sempre gli stessi: salvare quante più anime possibili. Era, cari amici, palesemente chiaro l'abbandono che il popolo viveva in quegli anni, soprattutto a livello religioso. Le chiese si frequentavano pochissimo, i sacramenti erano quasi dimenticati, così come era dimenticata la preghiera. C'era veramente un imbruttimento generale. E c'era nell'aria, ci viene detto, una tristezza immensa. E proprio in questa notte buia, in quei luoghi, un raggio di luce lo portavano proprio questi santi. Dicevamo della sua passione a Gesù Bambino e a questo meraviglioso mistero dell'incarnazione. Ebbene, padre Lorenzo Maria, dopo da allora, cioè per quasi 45 anni, nei corsi di tante missioni al popolo, di esercizi spirituali predicati a seminaristi e a monache di clausura, di Gesù Bambino raccomandò la devozione e la diffuse, facendo anche stampare immaginette, coniare medaglie e fabbricando con le proprie mani in cera l'effigie del bambinello. E proprio di questa devozione al mistero dell'incarnazione ne era così innamorato, così rapito, che i confratelli talora parve in estasi quando ne parlava. Poi con sé, sul petto, sotto la tonaca, portava sempre l'immagine di Gesù Bambino, chiusa in una cornice ovale di metallo, e la faceva baciare a tutti quelli che lo avvicinavano. Scrisse, dicevamo, anche diversi opuscoli per indicare ai fedeli il modo di onorarlo nel modo più giusto. Nel 1832, ormai la bufera napoleonica era passata da anni, pubblicò ad Assisi in 4 volumetti l'opera intitolata L'anima innamorata di Gesù Bambino. Insomma, non si fermava mai. Predicava, scriveva, pregava, faceva tante penitenze offrendo tutto a Gesù per la salvezza di tanti fratelli, fratelli che incontrava ma anche tantissimi che non conosceva. E le fatiche che dovette sostenere furono estenuanti se, durante l'estate di quell'anno, fu mandato a recuperare le forze nel convento di Montecavo, sopra Rocca di Papa, sempre in provincia di Roma. Ma lui non smetteva mai di operare, di parlare di Gesù Bambino, anzi, molti erano i più esercizi che faceva durante l'anno in suo onore. Al mattino, quando si alzava, si preparava per andare in chiesa o al coro, faceva il segno della croce e rinnovava il proposito di servirlo con esattezza e generosità per tutta la giornata, dicendo: «A te dono il mio cuore, caro bambin Gesù, fonte di amore». Prima di uscire dalla cella si inginocchiava davanti all'immagine del bambino, la baciava e poi se la metteva sul cuore. Durante la giornata, pur svolgendo con impegno tutti i suoi doveri, pensava continuamente al figlio di Dio incarnato. Talora si sentiva incapace di dominare questo ardore enorme che per lui provava e allora cosa faceva? Ne metteva l'immagine sul tavolo, la venerava con tante genuflessioni, poi la prendeva tra le braccia, la stringeva al cuore e sospirava dicendo: «Caro Gesù Bambino, ti dono l'anima e il cuore mio». E quando a volte si sentiva non degno di onorarlo oppure non incapace di onorarlo in modo conveniente, allora nella preghiera invitava gli angeli, i santi del paradiso, a venire essi stessi ad onorarlo come meritava. E allo scoccare delle ore diceva: «Benedetta sia quell'ora in cui nacque il buon Gesù dalle viscere di Maria per salvare l'anima mia». E quando recitava l'Angelus Domini si commuoveva, pensando proprio all'incarnazione del Verbo. Lo stesso quando celebrava la Santa Messa, spesso piangeva pensando che in quel momento possedeva Gesù non più in un'immagine, ma nella realtà della sua umanità. considerava il giorno 25 di ogni mese come giorno festivo. E qui vi premettevo una piccola novena che consisteva in 5 offerte all'Eterno Padre legate all'Incarnazione. E quando arrivava quel giorno, recitava i gradi della Santa Infanzia davanti all'immagine di Gesù Bambino. In suo onore, ogni 3 mesi compiva speciali atti di virtù, allo scopo, diceva lui, di preparargli la culla, di impedirgli di piangere, di preparargli il vestitino, gli ornamenti e in modo speciale la piccola cinturina. Nel suo crescente affetto ideò la pratica da lui chiamata viaggio spirituale alla spelonca di Betlemme. E cominciava il 2 di novembre e terminava il 24 dicembre e la faceva consistere nel recitare ogni giorno 48 Ave Marie, camminando, ma soprattutto meditando il mistero dell'Incarnazione con un amore enorme e immaginando in quei momenti di avvicinarsi al santuario di Betlemme. Ecco, adesso vado indietro di qualche anno e poi mi ricollego a quello che stavamo dicendo. Praticamente con la caduta di Napoleone I e il ritorno a Roma di Papa Pio VII, siamo nel 24 maggio 1814, anche la congregazione dei passionisti, che era stata praticamente annullata, azzerata, dopo un mese fu ripristinata, ma ahimè era composta soltanto da 151 membri. Tutti però entusiasti, pieni di fede, pronti e desiderosi di riprendere il loro apostolato. E l'anno dopo, nel gennaio dell'anno dopo, padre Lorenzo Maria diede inizio alla sua prima campagna missionaria nella Sabina, quindi nel Lazio. E questa campagna missionaria la proseguirà fino alla morte, dirigendo e allargandola nelle città dell'Italia centrale, con almeno 260 corsi di missione, altrettanti esercizi spirituali, confessando folle di penitenti, aiutando tantissime anime sulla via della perfezione. Ma soprattutto, cari amici, proprio per questa unione con Gesù e con la Madonna, aveva una luce particolare anche nella parola. Quanti cuori erano stati toccati dalla grazia proprio della sua parola, una parola che infondeva nell'intimo la speranza, proprio il desiderio di proseguire, di andare avanti, nonostante la durezza della vita, la durezza di ogni giorno. Molti erano poveri, non avevano più nulla, non avevano neanche più speranza, e lui chiedeva di affidarsi ogni giorno ai Sacri Cuori di Gesù e di Maria. Non si fermava mai, nonostante nel 1824, a 32 anni, durante lui era rettore nel convento di Todi, avesse contratto un'importante forma di nevrosi che per tutta la vita, pensate, gli causerà apprensioni e convulsioni. Invece di addolorarsene, scriverà il padre Paolino delle Cinque Piaghe, che era il consultore generale: detto male, mi serve di svegliareno per andare a Dio, cioè per non montare in superbia, perché lui in effetti di grazie già ne otteneva tantissime, proprio per questa sua unione a Gesù. E non si abbatteva mai, nonostante, diciamo, la malattia, era disinvolto, socievole, allegro. Era allegro fino all'umorismo con il prossimo, i bambini lo adoravano per la sua semplicità, per la sua amabilità, e gli si facevano attorno ed egli li contraccambiava mettendo sotto la protezione della Vergine Maria le loro piccole anime e la loro vita. Non perdeva tempo, era concreto, attivo, tanto che i confratelli lo chiamavano il moto perpetuo. E oltre che predicatore meraviglioso, fu anche per 19 anni superiore e modello santo della comunità. Per 6 anni fu vicario e per 14 anni consultore provinciale. Sapeva incoraggiare i buoni, avvisare, correggere e, se era necessario, punire i negligenti. Osservantissimo della regola, amante del silenzio e in profonda umiltà, trascorreva la giornata nella preghiera, nel meditare la passione di Gesù, nel fare spesso la Via Crucis, nel preparare in modo meticoloso le prediche, nel confessare, e quanti cuori ha aperto, e quante migliaia di persone ha portato poi ad una conversione, e anche nel dirigere, quanti si rivolgevano a lui per un consiglio, per essere consolati. Interrogato da un confratello come facesse a rispondere a tante lettere che gli arrivavano, rispose: scrivo a ciascuno quanto è necessario, nulla di più. E proprio dalle 150 sue lettere che ci sono rimaste, si legge che in tutti cercava di infondere sentimenti di grande pietà, di carità, di fiducia e di amore di Dio. Il 27 luglio del 1852, dal suo ultimo ritiro di Sant'Angelo di Vetrale, in provincia di Viterbo, scrisse ad esempio a un ricco, era molto ricco, ma triste possidente. Questo possidente si era, diciamo, da poco aveva preso coscienza, proprio grazie al nostro Beato, della sua condizione, anche di usurpatore. E allora il nostro Beato, il nostro padre Lorenzo gli scrive così: su dunque, non disperazione, ma umiliazione, non disperazione, ma confidenza, non disperazione, ma dolce pentimento, non disperazione, ma opere buone che placchino meglio l'irritata giustizia di Dio. Era il nostro padre Lorenzo molto amato da tante persone, ma anche molto combattuto da tante altre. Il demonio lavorava, quindi aveva anche i suoi. Ma anche tra i suoi confratelli c'era chi lo stimava moltissimo. E addirittura un altro beato dei passionisti, il beato Domenico della Madre di Dio, che a Roma aveva avuto proprio padre Lorenzo per alcuni anni come vice direttore, supplicò più volte il proposito generale dei passionisti, allora era padre Antonio Testa, di eleggere padre Lorenzo direttore del ritiro di Ere presso Tournai in Belgio, che lui aveva fondato prima di imbarcarsi per l'Inghilterra, tanto era persuaso della capacità del nostro beato di dirigere, di fare il superiore. Oltretutto in Belgio era importantissimo essere non solo presenti, ma anche cercare di toccare i cuori delle persone. Stranamente, in effetti, i santi a volte non sono compresi, ma questo fa parte, diciamo, della vita. Il padre Testa non solo non ne condivise la stima, ma rispose al beato Domenico della Madre di Dio, quest'altro passionista, gli rispose con tono asciutto così: non ho creduto e non credo utile mandare padre Lorenzo, vostra paternità lo conosce poco e per conseguenza non sa ciò che chiede. Ma il Signore, cari amici, la pensava diversamente da padre Testa. Infatti, negli ultimi anni di vita, padre Lorenzo Maria ebbe addirittura, il Signore gli concesse il dono dei miracoli. Guarì infatti molti infermi, benedicendoli proprio con l'immagine di Gesù bambino, ungendoli con l'olio della lampada del Santissimo Sacramento. Ma c'è di più. Nell'archivio del convento di Sant'Angelo di Vetralla, siamo in provincia di Viterbo, è conservato un volume manoscritto in cui sono esposte tutte le fatiche apostoliche che avevano sostenuto i passionisti di quella comunità, che vanno dal 1828 al 1870. Ebbene, cari amici, proprio qui si parla di 5 guarigioni di malati ottenute miracolosamente con la recita di una preghiera composta proprio dal nostro beato in onore di Gesù bambino. Non solo, anche della liberazione del monastero di San Paolo di Tuscania, sempre in provincia di Viterbo, dalle infestazioni diaboliche alle quali le suore clarisse andavano soggette. Liberazione ottenuta in seguito proprio a delle preghiere speciali fatte da padre Lorenzo Maria su invito del cardinal Pianetti, che era il marchese ma anche il vescovo della città. Nel frattempo, durante il pontificato di Papa Pio IX, nello Stato Pontificio, i mazziniani iniziarono a sobilare gli animi per un'Italia unita e repubblicana, iniziando anche i moti rivoluzionari. E, insomma, furono mesi molto, molto tristi e molto combattuti. E padre Lorenzo Maria previde allora che per la Chiesa incominciavano un'altra volta grandi guai e che sarebbero durati a lungo. E qui nel 1848, quando Pio IX, proprio in seguito all'uccisione di Pellegrino Rossi, suo primo ministro, e anche su consiglio del cardinale Antonelli, il suo segretario di Stato, fuggì a Gaeta, dopo alcuni mesi anche padre Lorenzo per sfuggire alla cattura, si rifugiò nel ritiro di Monte Cavo. Allora, loro avrebbero dovuto questa repubblica, questa diciamo nuova repubblica romana, restaurare non si sa bene che cosa, perché quello che fecero, allora ci fu Roma invasa da dadi, da anticlericali, massoni e quant'altro, che allora spogliarono le chiese, maltrattarono le monache, arrestarono, uccisero e torturarono i religiosi. Questo è quello che è scritto. Comunque durò pochi mesi questa prima Repubblica Romana instaurata da Mazzini, Safi e Armellini, fu poi sconfitta appunto ad opera delle truppe francesi inviate da Napoleone III proprio in difesa del Papa. E qui anche, come tornò il Papa, tornò anche il nostro padre Lorenzo Maria insieme a tanti altri religiosi che erano praticamente usciti da Roma, si erano rifugiati o erano nascosti. Nel frattempo, all'inizio, siamo nel 1850, il nostro Beato fu di nuovo eletto consultore della provincia della Presentazione, composta da 13 conventi con 220 religiosi, ma a causa della cattiva salute, con grande dispiacere, non poté più dedicarsi alle missioni. Lui andava a predicarle, le missioni al popolo, era una cosa che amava profondamente, moltissimo, però questo richiedeva una grande energia e lui non ce l'aveva più. Cosa fece? Allora diede tutto se stesso nella predicazione di esercizi spirituali, specialmente alle monache di clausura, ma anche alla direzione, alla direzione spirituale di tantissime anime, di tantissimi laici. E nel 1853 fu persino chiamato da Monsignor Pecci, che poi sarà il futuro Papa Leone XIII, a dirigere le religiose del monastero di Monteluce presso Perugia, di cui lui era arcivescovo. Insomma, non sapeva dire di no, aveva un cuore grande a quanti ricorrevano al suo ministero, benché, dicevamo, la sua salute continuasse a peggiorare. E in effetti la salute era peggiorata di parecchio. Leggiamo in una lettera che aveva scritto ad una sua figlia spirituale, era una baronessa, la Virginia Trasmondo, da lui andavano nobili, poveri, mercanti, non abbandonati, era un padre per tutti, aveva un cuore grande, quindi tutti accoglieva e guai ad allontanare le persone da lui. Lui scrive così a questa Virginia Trasmondo, questa baronessa: mi lusingavo quasi farle un'improvvisata nei giorni passati, ma io pure per cagione di salute vengo visitato dal nostro caro divino infante, quindi era nella prova. E vi sono momenti nel corso della giornata che mi getterei per terra come i giumenti, cioè come i cavalli, quando per la fatica non ne posso più. Ma pure in mezzo allo sfinimento di forze vado reggendo e tiro avanti come nulla soffrissi. Il nostro santo bambino regge me, che sono immeritevole. E arriviamo, cari amici, al 20 febbraio 1854. Aveva il nostro Beato 72 anni. Quel giorno cadde a terra in coro per un collasso cardiaco. Tutti naturalmente erano molto preoccupati e al padre provinciale, che gli raccomandava di avere cura della salute, lui scrisse: «I necessari riguardi non mi mancano, quantunque amerei questo corpo mio averlo un po' più mortificato a sgravio delle mie bricconerie, delle mie colpe». Ma cioè, se non era santo lui! E si considerava appunto immeritevole soprattutto di quanto, diceva, il Signore gli aveva donato nella vita. Un miserabile peccatore, diceva. E alle sofferenze che già pativa, il 17 aprile del 1855 se ne aggiunse un'altra, a causa del ribaltamento del carretto su cui viaggiava. Riportò qui diverse ferite al braccio e anche alla spalla, ma invece di lamentarsi esclamò: «Sia tutto per amore di Dio». Dovette però restare a letto una quarantina di giorni, profondamente dispiaciuto non dal male, ma di non poter celebrare la Santa Messa. Appena ebbe recuperato un po' di salute, il Cardinal Pianetti, nel mese di agosto, lo pregò di andare a visitare una suora e a benedirla. Era una suora che soffriva tantissimo, era Maddalena Frangioni, una religiosa del monastero delle Agostiniane a Viterbo, malata da circa 8 anni. Era inguaribile. Padre Lorenzo Maria ubbidì e non, con molta fatica arrivò, perché insomma non è che stesse poi così bene. La consolò, pregò per lei, la benedisse come al solito, sempre con l'immagine di Gesù bambino. Poi si fermò, quasi pensando, e le disse: il tuo santo padre Agostino, cioè Sant'Agostino, ti ha ottenuto da Gesù bambino una bella grazia. Domani ti alzerai. La religiosa non credeva alle sue orecchie, era sorpresissima, era impossibile, era praticamente a letto da 8 anni, era impossibile. Ebbene, cari amici, successe così. Il giorno dopo si rimise non solo in piedi, ma stava bene, di salute. E era un miracolo. La fama di questo miracolo si sparse come in un baleno per tutta la città. E appena il nostro Beato riapparve per la città di Viterbo, un gruppo di fanciulli lo seguì gridando subito: ecco il santo! Lui, per la gioia della notizia, non di quello che dicevano i bambini, di cui era grandemente dispiaciuto, ma per la gioia della notizia che dava la salute alla religiosa, riconoscendo l'infinita e grande misericordia di Dio. Voi pensate anche a questo miracolo, no? Per esempio anche alla gioia che dava la comunità. Confuso anche per quanto successo, non riusciva a trattenere il pianto, ci dicono le cronache. E in quel momento proprio vide una donna a Viterbo che conosceva e le disse: felicetta mia, disse proprio così, senti che cosa gridano questi ragazzi, io sono il più grande peccatore che vi sia al mondo, sono uno scellerato e questi fanciulli gridano ecco il santo. Era sinceramente, cari amici, profondamente mortificato di quanto stava succedendo, ma soprattutto di quello che dicevano di lui. E arriviamo alla fine dell'anno, alla fine del 1855, il cardinal Pianetti chiamò ancora una volta padre Lorenzo Maria a Viterbo perché con un solenne triduo di preghiere ottenesse da Gesù una grande grazia. E questa grazia, cari amici, era la cessazione del colera che aveva già fatto nella diocesi circa 270 morti, e non era una cosa da poco. Padre Lorenzo Maria con grande fatica arrivò, predicò, pregò tantissimo, raccolse tutti, con un cuore solo e un'anima sola, chiese a Dio la grazia, alla Madonna, di intercedere per avere la grazia della cessazione del colera e soprattutto raccomandò a tutti di essere devoti di Gesù bambino. Il morbo cessò in quei giorni. Allora cosa succedeva? Che quando si recava dopo dal palazzo vescovile alla cattedrale a Viterbo e viceversa, adesso non erano più i bambini, ma il popolo gli si affollava intorno per baciargli le mani, l'abito, il mantello, per chiedere una parola, e tutti a una sola voce ripetevano: passa il santo. Ma il nostro grande e umile apostolo, questo grande apostolo passionista, morì, il Signore lo prese improvvisamente, pensate, era il 12 giugno 1856, aveva 74 anni, morì per una sincope. Il sacerdote che era stato chiamato al suo capezzale fece appena in tempo ad amministrargli gli ultimi sacramenti. I suoi resti mortali sono oggi venerati e ha moltissimi fedeli che vanno a trovarlo, sono venerati proprio nel convento di Sant'Angelo di Vetralla in provincia di Viterbo. E qui San Giovanni Paolo II ne riconobbe l'eroicità delle virtù beatificandolo il 1 ottobre 1989. Bene, cari amici, abbiamo concluso la vita del nostro beato Lorenzo Maria Salvi, questo grande apostolo passionista, e dunque se desiderate avere, non riusciamo a fare telefonate perché tra un po' arriva il Santo Rosario, si prega il Santo Rosario in diretta, però se desiderate avere ulteriori informazioni, allora probabilmente potete già scaricarlo domani dopo.